Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Girando per le strade di Londra negli anni 60, poteva capitare di imbattersi in scritte sui muri che recitavano «Clapton is God», «Clapton è Dio». Lui, Eric, soprannominato poi Slow Hand, ne aveva solo 20 di anni, ma già poteva provare l'ebbrezza di essere un dio per un esercito di fan. Forse per colpa di questa precocità, di un carattere irrequieto e turbolento, di una sensibilità perennemente insoddisfatta, la vita e la carriera di Eric Clapton sono un romanzo straordinario, tragico e appassionante, fatto di colpi di scena e di magnifici destini. Un viaggio di cui proveremo a raccontarvi qualche tappa. La vita di quello che il settimanale Rolling Stone definirà il secondo miglior chitarrista di tutti i tempi inizia il 30 marzo 1945 a Ripley, una cittadina del Surrey, in Inghilterra. E inizia nel segno della sofferenza e del disordine. Sua madre ha 16 anni, suo padre è un soldato canadese che abbandona il bimbo appena nato per combattere in altre zone d'Europa. Anche la madre lo abbandonerà e Clapton crescerà insieme ai nonni, che fino all'età di 9 anni crederà essere i suoi genitori. Se si accosta l'immagine dolorosa dell'infanzia di Clapton a una delle sue più recenti trovate da multimiliardario, una Ferrari costosissima disegnata su misura, si comprendono perfettamente le complessità e la quantità di cambiamenti che il grande chitarrista ha affrontato nel corso della sua vita. Il primo magnifico destino che risulta determinante per il talento di Eric Clapton ha la forma sinuosa e seducente di una 6 corde. La sua prima chitarra acustica, una Heuer di fabbricazione tedesca, in regalo per i suoi 13 anni. Poco produttivo negli studi, tendenzialmente indisciplinato, anche il rapporto con la chitarra non è semplice per Clapton. Imparare a suonarla gli pare inizialmente troppo difficile, il che oggi non può che farci sorridere. A fargli trovare la determinazione giusta è la scoperta del blues. Fin da quando avevo 5 anni, i miei ascoltavano Harry James e i fratelli Dorsey, Fats Waller, Louis Armstrong, Stan Kenton, soprattutto la musica afroamericana. Ricordo in particolare un brano strumentale di Sonny Terry e Browning McGee, Whoopin' and Hollerin'. Ero piccolo, ma mi sembrava una cosa modernissima. I'm a stranger, yeah. Just born in your town. Oh, yes, I am. I'm a stranger, yeah. Just born in your town. Ovviamente non sapevo nemmeno che si chiamasse blues. Una parte di me rispondeva istintivamente a quella musica, che mi rimaneva nell'anima. Anni dopo è riemersa come parte del mio viaggio musicale. Ma ricordo esattamente quando fui catturato dal blues. Fu ascoltando Big Bill Broussy. Con lui capii da dove veniva lo skiffle e tutto il resto. Hey Hey e Key to Highway sono state le prime canzoni che ho cantato. I got the key to the highway, and I'm built out and bound to go. I'm gonna leave there running, 'cause walking is most too slow. Il blues regala a Clapton la perseveranza per proseguire lo studio della chitarra. Eric trascorre ore a tentare di riprodurre gli accordi e le scale dei suoi brani blues preferiti. In Inghilterra però gli anni 60 sono anni di sperimentazioni e contaminazioni musicali. Sono gli anni in cui si diffonde e si afferma la cosiddetta psichedelia. Il rock psichedelico vede le sue prime attestazioni più o meno contemporaneamente negli States e in Inghilterra, trovando pieno riscontro e successo a partire dalla metà del decennio. Nel 1963 la prima esperienza di Clapton in una band avviene in un gruppo che ha forti tinte psichedeliche, i The Yardbirds, con cui Slow Hand rimane 2 anni e incide il grande successo For Your Love. For your love. Il grande salto verso il successo e verso il suo stile inconfondibile personale, però, Clapton lo compie subito dopo aver abbandonato gli Yardbirds nel 1965. È proprio in quell'anno che il suo percorso si incrocia con il primo magnifico destino che cambierà la sua vita. Si tratta del grande John Mayer. Mayall è un'istituzione, una sorta di monumento vivente del blues. Musicista, polistrumentista e autodidatta di una decina d'anni più anziano di Clapton, John Mayall fonda nel 1963 una delle band destinate a fare la storia di questo genere musicale, i Blues Breakers. I Blues Breakers di John Mayall sono l'avanguardia di una sorta di rivoluzione culturale. Il blues all'inizio degli anni 60 è in Europa ancora un genere di nicchia, soprattutto poco suonato, in quanto ritenuto quasi esclusivo appannaggio di musicisti neri del sud degli States. Chi lo suona in Europa non riesce ad allontanarsi dall'imitazione, come ricorda lo stesso Mayall. Era l'Inghilterra di una ristretta cerchia di fan di blues. Prevalentemente tutti espatriati dai club jazz, soprattutto fuori Londra. Per loro il blues era una specie di ripetizione pedissequa dei suoni, del mood, dell'accento dei neri del Mississippi. Puoi capire che se vieni dalle Midlands non è esattamente uguale il risultato. Solo nel 1963 le cose cambiarono quando i Rolling Stones fecero capolino, ma ti assicuro che ci vollero almeno altri 2 anni per raggiungere la massa. Per non parlare della vita blues fuori Londra. Tutti pensano alla Gran Bretagna e si concentrano su Londra. I Blues Breakers vengono fondati nel 1963 e saranno destinati a un percorso di incredibile longevità durante il quale Mayall avrà il grande merito di scoprire e lanciare grandissimi talenti che poi troveranno il loro posto nella storia della musica. Mi piace tenere la pentola in ebollizione. Le sorprese tirano fuori cose nuove nei musicisti. Quando ho assunto un musicista nella mia band, l'ho scelto per quello che era e non per quello che avrei voluto fosse. Ogni chitarrista, batterista o bassista deve esprimere se stesso sul palco, altrimenti è solamente una farsa. Scoprire i miei musicisti sul palco è sempre stata una delle più belle cose del mio lavoro. Clapton incontra Mayall nel 1965, poco dopo aver lasciato i The Yardbirds. I due si intendono subito e John decide di prendere Clapton sotto la propria ala. Lo ospita per settimane a casa sua, facendogli ascoltare dischi rari e parlando per ore di musica, di accordi, di scale. È una tappa fondamentale per la crescita musicale di Clapton. Nel luglio del 1966, da questa intesa, nasce l'album leggendario The Blues Breakers with Eric Clapton. Questo mitico album è conosciuto tra i fan anche con il nome di Bino, perché sulla copertina proprio Clapton, con la sua celebre irriverenza, appare svagato e intento a leggere con aria annoiata dei fumetti della celebre serie inglese appunto intitolata Bino. L'album ottiene un successo straordinario e consacra Clapton come uno dei più virtuosi chitarristi della scena blues internazionale. La mia intenzione era di registrare l'album dal vivo, in un locale, perché Clapton era solito improvvisare a soli straordinari quando sentiva l'atmosfera del concerto e volevo catturare proprio quel feeling. Purtroppo la registrazione live risultò di pessima qualità sonora, così decidemmo di ripiegare in studio, ai Decca Studio di Londra. Per ottenere il suono che sarebbe passato alla storia, Clapton decide di cambiare strumento e di scegliere con cura una chitarra molto particolare, una Gibson molto rara. Si tratta di un modello che non aveva avuto successo quando era stato lanciato sul mercato, la Les Paul Standard prodotta alla fine degli anni 50. Costruita all'epoca in soli 1700 esemplari, si dice di questa chitarra che fosse con ogni probabilità troppo in anticipo sui tempi. I tasti ampi e il manico più corto rispetto alla concorrenza la rendevano ideale per il bending. I pick-up offrivano uno spettro di suoni molto vasto ed erano molto più inclini alla distorsione dei loro predecessori. Insomma, era una chitarra indiscutibilmente rock, con un manico sottile in grado di garantire grande velocità di azione che Clapton si accingeva a usare per fare il blues. Clapton decide di abbinare la chitarra a un amplificatore Marshall 1962 da 45 watt, usato col volume rigorosamente al massimo. La band era costituita da altri musicisti di grandissimo spessore, come il batterista Hughie Flint e il bassista John McVie, che pochi anni dopo sarebbe stato parte dei grandissimi Fleetwood Mac. Perfetti si rivelano anche i fiati, John Almond al sax e Dennis Healy alla tromba. Quando viene pubblicato, il disco viene intitolato John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton, una scelta dettata dal fatto che la casa discografica sa bene qual è il componente del gruppo che avrebbe attratto più acquirenti. La scaletta dell'album presenta 7 cover e 5 brani nuovi scritti da Mayall cercando di conformarsi ai modelli d'oltreoceano, e uno di essi, Double Crossing Time, è firmato in coppia con Clapton, che di fatto del pezzo è assoluta star. Il momento migliore di Mayall come compositore è senza dubbio Key to Love, con i fiati in primo piano che conferiscono al pezzo un sapore rhythm and blues e che accompagnano Clapton nel suo fulminante assolo. Per la prima volta, Clapton si cimenta anche come cantante e, comprensibilmente, decide di farlo con un pezzo del suo maestro Robert Johnson. Per Rambling on My Mind sceglie un arrangiamento spartano, con il piano di Mayall ad accompagnare la sua esecuzione pulita e intensa, piena di rispetto per l'originale. I'm going down to the station, catch that fast new train I see. I'm going down to the station, catch that fast new train I see. Got the blues about me, so-and-so. Son, got the blues about me. Non penso che in giro ci fosse qualcuno che facesse quel che facevo io, che suonasse il blues con il mio stesso rigore. E io cercavo di suonarlo rispettando fedelmente le regole. Ero davvero sicuro di me e non penso che ci fosse qualcuno bravo come me. In realtà Clapton non rispetta fedelmente le regole, anzi, per sua e per nostra fortuna il suono rock della sua Gibson gli permette di raggiungere un risultato di grandissima originalità, pronto ad accogliere svariate influenze di differenti provenienze. L'esperienza con i Blues Breakers, decisiva per farlo diventare uno dei chitarristi più quotati e considerati in Europa, si esaurisce presto, prestissimo. Sono stato membro dei Blues Breakers per pochi mesi. Il motivo di così breve collaborazione con John Mayall è dipeso dalla mia congenita inaffidabilità, dalla mia irresponsabilità come uomo e artista. Sì, a volte arrivavo in ritardo alle prove o addirittura non mi presentavo sul palco. John era un serio professionista e certe cose davvero non le sopportava. L'insubordinazione era punita con il licenziamento immediato. Comunque, molti anni dopo, mi sono pubblicamente scusato con lui. Ciò che attende Clapton negli anni successivi, però, è altrettanto straordinario per la storia della musica. Clapton fa appena in tempo a conoscere nei Blues Breakers il bassista Jack Bruce, con il quale sviluppa una grande intesa. Insieme daranno vita all'eccezionale esperienza dei Cream, un super gruppo che segnerà la storia della musica. It's getting near dawn, when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Mentre i Cream spopolano e diventano una band di culto, nel 1968 arriva un'altra prestigiosa tappa nella carriera di Clapton, la collaborazione con Frank Zappa per l'album solista di quest'ultimo, Lumpy Gravy. Il secondo magnifico destino di oggi, nella vita e nella carriera di Eric Clapton, ha un impatto enorme sia sotto il profilo artistico che sotto quello personale. Si tratta del tormentato rapporto di amicizia tra Eric Clapton e George Harrison. Ci troviamo nel celebre Odeon di Hammersmith, la vigilia di Natale. I Beatles si sono appena esibiti nel primo di una serie di concerti raggruppati sotto l'etichetta di The Beatles Christmas Show. Tra la folla che li ha ammirati c'è anche Eric Clapton, che viene invitato al party successivo al concerto. In quell'occasione, sorseggiando un drink, Clapton ed Harrison si conoscono, parlano di musica, si intendono da subito alla perfezione. Nessuno dei due sa quanto quel rapporto, appena iniziato, sia destinato a incidere sulle rispettive vite. Da subito i due iniziano a lavorare e a sperimentare insieme. Badge, ad esempio, viene scritta da Clapton insieme a George durante una registrazione dei Cream. Nei credits dell'album Goodbye, che contiene il pezzo, George compare tra i collaboratori come l'angelo misterioso. In Badge, Harrison suona la chitarra ritmica. Thinking about the times you drove in my car. Thinking that I might have drove you too far. And I'm thinking about the love that you laid on my table. Le gemme partorite dalla loro collaborazione sono numerose. Ad esempio, i due registrano insieme il pezzo Sour Milk di Jackie Lomax, cantante britannico promosso dallo stesso manager dei Beatles, Brian Epstein. Infine Clapton suona le chitarre nell'album solista di George Harrison, Wonderwall Music. Il punto più alto della loro collaborazione, però, viene raggiunto quando Clapton suona la chitarra nel brano While My Guitar Gently Weeps. La fonte di ispirazione del brano era venuta ad Harrison dalla lettura di un libro, Li Qing. Dice lo stesso Harrison: «In Oriente ogni cosa è relativa a ogni altra cosa, mentre in Occidente è solo una coincidenza». Andando con questa idea di relativismo a casa dei suoi genitori nell'Inghilterra settentrionale, Harrison comincia a scrivere una canzone partendo dalle prime parole viste in un libro aperto a caso. Queste parole sono «Gently weeps», «piange dolcemente», e così inizia immediatamente a lavorare sul pezzo. Le prime spontanee stesure della canzone, però, vengono modificate, tagliate, cambiate in continuazione tra lo scetticismo dei compagni di band. La band registra il brano più di una volta, anche con nastri di chitarra al contrario, ma il progetto sembra sul punto di fallire. A quel punto Harrison invita Eric Clapton a passare la giornata in studio con lui. L'inclusione di Clapton si rivela decisiva per una band che stava attraversando uno dei numerosi momenti di tensione. Eric Clapton suona l'assolo di chitarra nella versione ufficiale, con la sua mitica Gibson Les Paul. Questo è l'intenso, felice e primo capitolo del rapporto tra George Harrison ed Eric Clapton. Il secondo si rivelerà non meno produttivo, ma decisamente sofferto e carico di tensione. Tra i due amici, infatti, come spesso accade, fa il suo ingresso una donna. Patti Boyd, giovane, magra, bionda, affascinante. Dall'inizio degli anni 60 è una delle modelle di Mary Quant. Nel 1964, quando ha solo 19 anni, viene ingaggiata dalla produzione del film A Hard Day's Night, uno dei lungometraggi dei Beatles. Il suo compito? Fare la parte della ragazzina innamorata dei Fab Four. La parte le riuscirà particolarmente bene. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel. Beh, mi ricordo che durante una pausa pranzo mi ritrovai seduta accanto a George. Ero emozionatissima. La prima cosa che mi disse fu: mi sposeresti? Beh, era una frase che ripetevano spesso alle ragazze che li adoravano, come scherzo. Ma In quel volto mi era sembrato di cogliere una punta di serietà. Io mi misi a ridere e allora George mi disse: «Beh, se allora non vuoi sposarmi, verresti con me a cena?» Io ero fidanzata allora, quindi rifiutai. Ci rivedemmo poco dopo. Ero libera questa volta. Ci sposammo il 21 gennaio 1966. Io avevo 21 anni e lui 22. Ero felicissima e convinta che quella felicità sarebbe durata per sempre. Per Patty, George Harrison compone una delle canzoni più famose e celebrate dei Beatles, Something. Per la verità, Patty ha sempre sostenuto che la canzone fosse per lei e questa convinzione si è presto diffusa. Tuttavia, Harrison molti anni dopo ha smentito che il pezzo fosse per la Boyd. «Stavo pensando a Ray Charles quando l'ho scritto», dirà Harrison. Sarà così, poco importa. Rimane il fatto che Something è una delle più belle canzoni d'amore che siano mai state scritte. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Il rapporto tra George Harrison e Patty Boyd va in crisi alla fine degli anni 60. Ed è qui che entra in scena Eric Clapton. In quegli anni i Beatles compiono un viaggio in India con le rispettive compagne. Harrison viene a contatto con la religione indiana e si appassiona all'arte della meditazione, tanto da diventare quasi un'ossessione. A quanto dice Patty, Harrison si trasforma, si chiude in se stesso e diventa intrattabile. Tra i due iniziano anche tradimenti reciproci, spesso compiuti per vendetta. Proprio in quel momento, Clapton inizia a frequentare spesso la casa di Harrison e conosce Patty Boyd, per la quale perde letteralmente la testa. Quando ci siamo conosciuti, io non riuscivo a credere che lui fosse una rockstar. Era così timido, silenzioso. Avevo capito subito che era attratto da me. Le sue attenzioni mi lusingavano, ma nulla di più. Mi adulava rivolgendomi mille complimenti su come ero vestita o anche su quello che avevo cucinato. Tutte cose che ormai George non faceva più. Quella di Clapton per Patty diventa una vera e propria ossessione, tanto che egli arriva a corteggiare la sorella di lei, Paula, per poterle stare più vicino. Patty resisterà al corteggiatore fino a quando la sua dichiarazione d'amore arriverà a manifestarsi attraverso le corde della sua Gibson, attraverso uno dei pezzi che faranno la storia del rock. Layla. È ormai il 1974, quando Patty lascia George Harrison e sposa Eric Clapton. L'unione tra i due si rivelerà molto lontana dall'idillio sperato. Il rapporto problematico con alcol e droga di Eric renderanno il matrimonio progressivamente sempre più difficile, fino alla separazione e al divorzio definitivo nel 1989. Patty fa in tempo però a ispirare un nuovo capolavoro. Dopo Something dei Beatles e Layla, il rocambolesco incrocio che ha visto Harrison, Clapton e Patty Boyd incontrarsi sulla stessa strada regala al pubblico Wonderful Tonight. Oggi ai Magnifici Destini abbiamo ripercorso alcuni fondamentali passaggi della parabola artistica di Slow Hand, il grande Eric Clapton. Dal fondamentale incontro con John Mayall e i suoi Blues Breakers, che porteranno i fan a scrivere sui muri di Londra Clapton is God, fino all'amicizia con George Harrison e il ménage à trois con la bellissima Patty Boyd, fonte di dolore e di ispirazione, alla base di capolavori come Layla e Wonderful Tonight. Sono indubbiamente moltissimi i musicisti che hanno influenzato Clapton, da Robert Johnson a tutti i maggiori bluesmen americani. Proprio a Johnson, ad esempio, Clapton ha dedicato uno splendido album intitolato Me and Mr. Johnson. Uno dei risultati originati dall'incontro di Clapton con un altro magnifico destino è certamente costituito dall'album Riding with the King, pubblicato nel 2000, che vede insieme Eric Clapton e il mitico B.B. King, uno dei suoi maestri. Clapton e B.B. King avevano già suonato insieme. Era il 1967. Clapton aveva 22 anni e faceva parte dei Cream. L'esibizione era avvenuta in un club di New York, il Café A Go Go. Ho incontrato Clapton la prima volta negli anni 60. Penso fosse il suo primo viaggio negli Stati Uniti. Siamo subito andati d'accordo. Ricordo in effetti una cosa molto carina. Quando tornò in Inghilterra nel corso di un'intervista, disse che una delle più belle esperienze che aveva fatto in America era stata quella di incontrarmi e di suonare con me. E da allora ha iniziato a piacermi. Ed è un tipo che mi piace tuttora. Il 4 novembre del 1997, poi, King aveva pubblicato un album, Deuces Wild, composto interamente da duetti. Nel brano Rock Me Baby, King duetta proprio con Eric Clapton. Proprio durante la session di registrazione di questo album nasce l'idea di Riding with the King. Il grande bluesman dirà di Clapton: Eric non solo è una persona molto gentile, ma anche il miglior chitarrista rock del mondo. Ha un talento eccezionale, può suonare tutto ciò che vuole a grandissimi livelli. Il blues lo suona molto meglio di molti musicisti del Mississippi. In sala di registrazione è molto professionale, mentre io non mi stanco mai di scherzare. Ci siamo trovati benissimo, fin dall'inizio, a suonare insieme. Il progetto viene portato avanti soprattutto da Clapton, che sceglie i brani attingendo dal vecchio repertorio di King e da alcuni standard blues, e raduna una band avvalendosi dei suoi abituali session men. Poi però Slow Hand lascia campo libero a B.B. King, concedendogli la maggior parte degli assoli e il ruolo centrale nelle parti vocali. Il risultato è semplicemente straordinario e apre un nuovo brillante capitolo nella carriera di Eric Clapton. L'album fa incetta di premi ed è considerato dai fan dei due artisti come una pietra miliare delle rispettive carriere. Per prima cosa, Riding with the King si aggiudica il Grammy per il miglior album blues dell'anno, nel 2000. Vince due dischi di platino negli States e raggiunge il primo posto delle classifiche di vendita, rimanendoci per qualche settimana. Unica critica che viene mossa all'album? Il sound, troppo pulito e troppo perfetto per un album blues. Ma è comunque un successo di proporzioni straordinarie. Questi tre magnifici destini ci hanno permesso di assaporare tre momenti fondamentali della carriera di uno dei più grandi musicisti rock della storia. I numeri di Eric Clapton del resto fanno impressione. Unico artista ad essere stato inserito tre volte nella Rock and Roll Hall of Fame, come solista, con i Cream e con gli Yardbirds. Secondo nella classifica redatta dalla rivista Rolling Stone dei migliori chitarristi di sempre, dietro a Jimi Hendrix, quindi il migliore dei viventi. Insignito dalla regina del titolo di membro onorario dell'impero britannico per meriti artistici, vincitore di decine di Grammy. Clapton è una leggenda del blues rock, insomma. Una leggenda che nella sua vita, sin dall'infanzia, ha conosciuto la sofferenza e non se ne è mai liberato. I problemi di alcol e droga, i burrascosi rapporti con le donne, la tragica morte del figlio Connor avuto con Lori del Santo. Ferite che hanno segnato Clapton nel profondo. Ferite che spesso, però, hanno trovato una sublime rielaborazione nella musica.